solo Raps. Passate e posso avere soltanto di metà civic che cammina tutte le giorni come sempre che fosse che zomba di zomba e care po' ma è di più non voglio non c'è imparato che appazzia con piomba sicuro non si aggalla perché a fine a fondo con fuoco coscia l'acqua ti rinfresca ma una cosa ti sta corta e sorda che ti fanno festa levo tua scuola ricordati che siamo cammina in un darete più a nessuno ma che a chi ti sta vicino perché poi ti metto un culo e tu non ci grida ancora che ti ha lasciato da sola. Saluto a te perché sei l'ultima e sta lista triste le compagne che sono state messe in croce con la crista non mi avvelisca perché in coppa si aiuta già saccia che tu mi aiuti pure un coppa una caruta guarda in cielo e si è trasuto in da stella più bella è sto cielo aperto e caserta grande nero e continuo a camminare anche se non lo so dove andrò chi son io e continuo a camminare gelato coro, l'anima, l'amore, tu solo l'olora mi fatta avere un mondo bianco e nero senza colora tutto quello che restava tra noi era solo rancora quando innutata, scettata, sti sigarette stutate un coppa sto coro ormai bruciati mi sentivo intrappolata sangue su loro lacrime, quante cose ci cacciate chiamatemi fissi, chiamatemi scemo, forza solo innamorata femmina bastarda, caino favazza mi fatta camminare, panana scavazza un coppa sti strade cavara arraggia, gelosia, che se non ne avete a me i compagni che dicevano mi basta, lascia la i e con